Incontri di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera e ancora per quanto resta. Buona domenica a quanti ci ascoltano, benvenuti a questa nuova formula di incontri che va in onda da questa domenica alla sera. Speriamo di mantenere gli ascoltatori fedeli che avevamo nel primo pomeriggio, ma di conquistarne soprattutto degli altri che si collegano con noi per sentire su Radio 24 i nostri incontri. E questa sera con The Final Countdown dell'Europe incontriamo Guglielmo Fiocchi. Buonasera. Buonasera. Guglielmo Fiocchi, amministratore delegato e direttore generale di Sogefi, poi ci spiegherà cos'è Sogefi, che è comunque una delle grandi aziende italiane all'interno del gruppo CIR, ma iniziamo da Europe, The Final Countdown, perché questo conto la rovescia. I motivi sono vari. Prima di tutto io sono un ingegnere aerospaziale e questa Final Quindi Countdown conto è il conto alla rovescia per andare sulla Luna, parla di un viaggio partendo dalla Terra andando su Venere, quindi c'è un legame con i miei studi. E poi un ingegnere spaziale però che adesso si occupa di auto, di motori, perché Sogefi è un'azienda che si occupa appunto di componentistica. Sì, io ho iniziato lavorando nel settore spazio, ero sulle famose guerre stellari di Reagan, poi ho cambiato lavoro, sono entrato in produzione e da lì sono rimasto ormai da 25 anni nel mondo dell'auto. Quindi con le ruote per terra. Con le ruote per terra e adesso in Sogefi ci occupiamo di componentistica auto. Ecco, componentistica di che tipo? Un'auto è fatta di tante cose, appunto sì. Le ruote per terra, dalle gomme al motore. Che tipi di componenti dell'auto fa Sogefi? Sogefi ha fondamentalmente due business unit, una che si occupa di tutta la parte filtrazione, quindi filtri olio, gasolio, aria e gestione dell'aria e dei sistemi di raffreddamento all'interno che entrano nel motore. L'altra business unit è quella che noi chiamiamo sospensioni, che vuol dire sia le molle sia le balestre, e si parla non solo di auto ma di camion, si parla anche di ferrovia, di pezzi grossi di acciaio, diciamo. Ecco, quindi non è innanzitutto una piccola azienda, come dimensioni, come possiamo descriverla? I numeri per descriverla sono 1,3 miliardi di euro di fatturato, 7.000 dipendenti, 43 fabbriche, sì, il giocattolino è abbastanza cresciutello. Quindi sede a Milano, siamo storicamente un gruppo italiano, è stata fondata 30 anni fa dall'ingegner De Benedetti, partendo da una fabbrica di Mantova, e poi piano piano, come un classico nel mondo dell'auto, crescendo e con acquisizioni è diventato un grosso gruppo internazionale, quindi sede a Milano e fabbriche in tutto il mondo. Ecco, fabbriche delocalizzate o fabbriche che sono vicine ai mercati? No, non si tratta di delocalizzazione, si tratta di seguire il cliente, perché noi viaggiamo con pochissime magazzino e dobbiamo essere vicini al cliente per servirlo, e quindi dove i clienti fanno le fabbriche noi li seguiamo, quindi è un'internazionalizzazione, non è una delocalizzazione. Ecco, sono ancora dei mercati che crescono, perché l'automobile, beh, in Europa qualche problema ce l'ha. Dunque, l'Europa è calata molto l'anno scorso, cala leggermente anche quest'anno, e le previsioni, diciamo, sono di restare piatti nel futuro. Sì, se crescerà pochino, ma non cambierà molto. Invece nel resto del mondo, il mondo dell'auto cresce molto, a livello mondo si prevede una crescita del 4-5%. Dove soprattutto? Le crescite sono Cina, ovviamente, che fa sempre il suo 7%, e Sud America è stabile nella crescita, India, l'ASEAN, che è ancora piccola ma con molti giovani, una popolazione molto giovane, economia anche in grande crescita. Per Sogefi in particolare noi cresciamo molto negli Stati Uniti, che è un mercato maturo, ma sfruttando le nostre tecnologie più sofisticate, con le nuove leggi che obbligano a ridurre i consumi, stiamo guadagnando molta quota. Quindi sul fronte sia dei consumi, sia della battaglia contro l'inquinamento, sia dell'innovazione, quindi è un settore in cui di innovazione ce n'è e ce ne vuole. Sì, noi pensiamo sempre al filtro come una cosa stupida o una sospensione come una cosa stupida. In realtà le case auto hanno delegato ai fornitori la parte di ricerca e sviluppo, quindi la nostra capacità di proporre soluzioni innovative è vincente sul mercato. E fondamentalmente il loro problema principale è il consumo in tutto il mondo, a livelli diversi ma in tutto il mondo, e noi lavoriamo da una parte sulla parte sistemi motori per ridurre il consumo gestendo meglio le temperature e il filtraggio, e sulle sospensioni lavorando sul peso, perché ovviamente ogni chilo in più, soprattutto col fatto che le macchine stanno tanto in città, partono e frenano, aumentano i consumi. Ecco, le sospensioni probabilmente ci vorranno sempre, ma i motori, non si sente un po' minacciato da questo avvento del motore elettrico? Forse dunque, di filtri del motore elettrico e di gestione dei liquidi ce n'è un po' meno. Dunque, tutti gli studi danno che i motori elettrici saranno probabilmente il 5% delle auto nuove nel 2025. Devo dire che ho ancora da lavorare 15 anni o più, però non mi spaventa così tanto. Io quello a cui credo è l'ibrido, perché l'ibrido già si vedono molte macchine in circolazione, e l'ibrido però per noi, anzi semmai, vuol dire un filtro in più, perché c'è il motore normale e poi le batterie hanno bisogno ancora di un filtro, quindi da quel punto di vista siamo corazzati, diciamo. Ecco, quindi sotto questo profilo l'innovazione cosa vuol dire? Per voi dove fate innovazione? In Italia? Avete centri in altri paesi? Noi abbiamo dei centri di ricerca abbastanza distribuiti, fondamentalmente abbiamo in Europa, in Italia fondamentalmente lavoriamo per Maserati, per Ferrari, è un centro di eccellenza sull'altissimo di gamma, come è giusto e tradizione, poi lavoriamo molto ovviamente anche per Fiat, e poi abbiamo centri di ricerca fondamentalmente in Europa e in Nord America, che è dove ci sono le case auto più sofisticate. Come motivare chi fa ricerca? Le risorse umane sono fondamentali, soprattutto in un'azienda tecnologicamente avanzata che vuole essere sui mercati. Come motivare le risorse umane in questa fase un po' complicata anche per molte aziende? Bisogna avere una vision chiara, bisogna dire dove si vuole andare. Bisogna comunicare molto con le persone. Noi abbiamo fatto tutto un lavoro di definizione di quali sono i valori che vogliamo avere e le competenze chiave per i prossimi anni. Abbiamo per esempio fatto un assessment su 180 manager nel mondo negli ultimi 2 mesi in funzione di questi valori e di queste competenze, in modo da poter fare dei piani di sviluppo dedicati alle singole persone. Poi bisogna offrirgli le occasioni, bisogna fargli la sfida, dargli la sfida, bisogna ogni tanto dirgli grazie. Bisogna cercare di essere chiari, severi, ma umani, mettiamola così. Ecco, quindi un piano di valorizzazione delle risorse umane. Voi assumete dei giovani ancora? Noi assumiamo dei giovani, detto sinceramente, più fuori dall'Europa che in Europa. Che in Europa. Però ci sono sempre stagisti, che poi quelli bravi restano, e questo può succedere, perché si trovano tantissimi giovani validissimi sul mercato. Ecco, la scuola italiana, rispetto a quando lei ha fatto ingegneria spaziale, come la trova cambiata? Dunque, io ho un buon controllo perché ho 2 figli che fanno il Politecnico. Quindi uno fa nano compositi, l'altro fa ingegneria gestionale, e devo dire che è rimasto severo, duro e serio, minimo come era allora, se non di più, ancora più integrato con le aziende. Infatti io penso che scuole come il Politecnico, la Bocconi, non hanno niente da invidiare agli altri. Indubbiamente, anche se poi spesso, ma questo forse è anche un indice che la scuola funziona, questi giovani vanno all'estero, sono costretti. Sì, ma è cambiata la visione. Noi ragioniamo sempre che il mercato è l'Italia, e il mercato come minimo è l'Europa, ma veramente come minimo. Cioè, ma anche per le aziende, ma anche per le risorse umane, non c'è più il passaporto del singolo paese, conta sempre meno. Noi non dobbiamo scordarci le nostre origini, il nostro cuore, le nostre idee. Poi il fatto di essere nell'auto un italiano è un vantaggio, ragioni in un modo, sei cresciuto con Ferrari, Maserati, Lamborghini. Però questo non vuol dire non andare all'estero, uno deve andare fuori. Io per esempio ho fatto 15 anni all'estero e poi sono tornato in Italia. Dove ha fatto 15 anni all'estero? Ho fatto Spagna, Inghilterra e Germania, moltissima Germania. Quindi è anche, diciamo, utile, se non qualche volta indispensabile, fare esperienza all'estero anche per fare carriera nelle aziende italiane. Assolutamente, perché le aziende italiane vincenti sono quelle internazionali, soprattutto nell'auto. Incontri. Ancora buonasera, quanti ci ascoltano ancora con Europe, The Final Countdown. Riprendiamo il nostro incontro con Guglielmo Fiocchi, amministratore delegato e direttore generale di Sogefi. Sogefi è una società che opera nel settore della componentistica auto, una delle società leader in questo settore, leader mondiali non solo italiane, una società che ha quasi 7.000 dipendenti in molti paesi del mondo, diciamo. Quindi qual è il paese che le dà maggiore soddisfazione sotto questo profilo, Guglielmo Fiocchi? Ma io trovo che è molto bello il lavoro che faccio io, sia perché si ha a che fare con delle persone di grandissimo valore e soprattutto la diversità, cioè io praticamente in continuazione cambio mondo, cambio problemi, cambio tutti i giorni. Gli Stati Uniti a noi stanno dando una grandissima soddisfazione, stiamo crescendo, siamo riconosciuti dalla parte tecnologica, sono stato in Messico, è una grande soddisfazione. Ecco, se potesse portare qualcosa del modello di fabbrica americana in una fabbrica italiana, che cosa porterebbe? Non parlerei di modelli di fabbrica, c'è più ottimismo, c'è più voglia di crescere, c'è più voglia di rilanciare, di accettare tante idee nuove, però devo dire che anche noi in Italia facciamo tante cose belle, siamo andati a cercarci dei nuovi business sulle ferrovie, c'è dappertutto, bisogna avere fame e curiosità, ma non c'è da divertirsi e da trovare le nicchie, i posti giusti dappertutto. Ecco, come mai l'Italia positivamente nel settore proprio della componentistica auto, non solo con Sogefi, ma possiamo anche citare Brembo, possiamo citare Pirelli, ha una posizione di leader in fondo con aziende altamente innovative? C'è qualche particolarità italiana? Beh, sicuramente l'aver avuto sempre molta industria dell'auto in Italia ha creato un gruppo di manager, di persone come sono io, che sono cresciute nell'auto. L'auto è un business molto complicato e se non lo conosci non ti riesci a muovere. Siamo tutti appassionati di automobile, il che aiuta, e bisogna anche pensare che in giro per il mondo quello che si sente ogni tanto, noi poveri italiani visti male, non esiste nell'auto. Ci sono manager italiani in tutte le grandi aziende dell'auto in tutto il mondo. Il fatto di essere italiano è visto come semmai come un vantaggio, ma non è mai assolutamente uno svantaggio. Basta, se lei ha citato Pirelli, Brembo, noi abbiamo delle quote di mercato gigantesche in tanti clienti all'estero. Bisogna solo lavorare seriamente, essere affidabili, lavorare sulla qualità. E quindi non c'è il tema passaporto non esiste più. Non c'è un'eccezione italiana. No, c'è un vantaggio di avere questa cultura dell'auto, delle belle macchine, insomma, siamo tutti ferraristi, diciamo la verità. Ecco, una bella macchina indubbiamente è qualcosa che appassiona. Parliamo poi del mercato dell'auto. Il mercato dell'auto in Europa è fiacco, in Italia è ancora più fiacco, come vede, i prossimi mesi. Abbiamo toccato il fondo? Dunque, dalle stime che danno tutti abbiamo toccato il fondo. C'è anche da dire che adesso i prossimi mesi il confronto sarà con gli ultimi mesi dell'anno scorso, che erano stati disastrosi, per cui non dobbiamo farci influenzare troppo dal fatto di vedere un più uno, perché è un più uno rispetto a un numero molto basso. Quello che dicono tutti è che se è toccato il fondo, a un certo punto il parco macchine diventerà talmente vecchio che converrà cambiare l'automobile che continuare a fargli manutenzione, quindi una leggera ripresa nei prossimi 2-3 anni la vedremo. Però non penso che rivedremo mai i numeri di 4-5 anni fa. Ecco, in questa prospettiva Sogefi sta avviando la ricerca su qualcosa di nuovo, su qualche novità, avrà qualche carta da giocare in più nei prossimi anni? Noi abbiamo 2 o 3 carte da giocare. La prima è l'essere un'organizzazione globale, internazionale a livello mondo. Questo permette di prendere dei contratti molto grossi. L'industria dell'auto ormai ragiona a piattaforme. Ti chiedono per esempio lo sviluppo a Detroit e poi la stessa produzione negli Stati Uniti e in Cina. Allora, o sei un'organizzazione delle dimensioni nostre, con le persone, con i sistemi, con le procedure in tutto il mondo, o non puoi prendere quel contratto. Dall'altra parte stiamo lavorando molto da un punto di vista di elettronica, di fluidodinamica, di gestione dei flussi e delle temperature, che è quello che serve per ridurre i consumi del motore, soprattutto quando il motore è freddo, perché il problema è quello, è scaldare velocemente nel modo giusto il motore. Quindi c'è ancora spazio per innovazione? C'è sicuramente molto spazio, anche un semplice sistema di gestione dell'aria abbiamo dimostrato con degli ultimi brevetti che abbiamo confermato di poter far risparmiare tra il 2 e il 3% di benzina con quella. C'è spazio dappertutto. C'è spazio dappertutto. Perché i nuovi materiali, l'elettronica, i sistemi integrati portano tutti i giorni delle novità. Ecco, delle novità che possono anche influenzare il tipo di consumo, il tipo di uso dell'automobile. L'automobile è ancora una cosa utile, anche uno status symbol, è qualcosa che è accattivante da un punto di vista anche sportivo. La Ferrari ha qualche problema, anche se resta comunque leader nella sua quota. Ecco, perché la Ferrari non vince più in questi ultimi... La competizione Formula 1 io l'ho seguita quando ero in Pirelli, è un livello spaventoso, bellissimo, da ingegnere è un livello fantascienza, e un anno si vince, un anno si perde, ma l'importante è essere competitivi, poi puoi arrivare a vincere un anno, arrivare secondo, ma Ferrari è sempre lì. È sempre lì seconda. No, sempre sì, però vince, insomma, adesso si può vincere, si può perdere. Ma può è bastare sempre... un piccolo particolare. Assolutamente a fare... sì, perché due decimi al giro fanno la differenza tra vincere e perdere. Noi dalla televisione ci sembrano scarsi, perché ma 2 decimi è niente. infatti. Ecco, basta un dettaglio, basta che esci dai box e hai davanti uno più lento, perdi 3 secondi quel giro e hai perso la gara. Ecco, c'è ancora molto, molto, molto passaggio delle competenze, delle tecnologie, delle innovazioni, delle corse sull'automobile di tutti i giorni? Sì, se lei pensa per esempio a tutti i nuovi cambi super automatici senza la frizione e così via, sono nati in Ferrari ai tempi di Mansell, se non mi ricordo male, agli anni, inizio anni 90. I sistemi di elettronica sono quelli, gli studi sui materiali soprattutto, per esempio i nuovi materiali vengono prima provati nelle corse e poi vengono portati sulle serie. C'è ovviamente una differenza di anni, prima le certo. usano le Ferrari e le Porsche di serie, poi le usano le BMW e poi le usano le macchine normali, però l'ABS, i freni a disco ai tempi con la Jaguar della 24 ore di Le Mans, ci sono praticamente tutte le evoluzioni vengono dalle corse. Ecco, lei è praticamente da 30 anni o anche di più nel mondo dell'automobile, prima in Pirelli, ha fatto 20, quanti anni? 25. Io ho fatto tra una cosa e l'altra, ho fatto una ventina d'anni in Pirelli. Ventina d'anni in Pirelli, negli ultimi anni appunto in Sogefi, ma è cambiato molto negli ultimi appunto 30 anni il mondo dell'automobile. Da un punto di vista di business sì, moltissimo, fino al 2005-2006 era un business molto locale, poi la crisi del 2008 ha fatto diventare questi grossi costruttori dei giocatori a livello globale, che quindi c'è qualunque partita si gioca su delle scale diverse, anche perché i mercati che un tempo erano fondamentalmente Europa e Nord America, i mercati che crescono non sono più quelli ma sono gli altri, quindi è diventata molto più una partita su una scacchiera gigantesca che a tante persone fa paura perché dice arrivano dall'Asia e così via, ma in realtà si sono aperti dei mercati enormi per le aziende. Quindi ecco, bisogna girare un problema in una grande opportunità. Per ora dall'Asia sono arrivata la concorrenza dei giapponesi, dei coreani, non ancora quella dei cinesi. Arriverà la concorrenza dei cinesi e in parte anche degli indiani? Direi ci vorrà un po' di anni, ma arriveranno sicuramente, come il loro mercato ormai è terra di conquista di tutti noi. Quindi bisogna ragionare in un mercato globale. I cinesi sono un po' più arretrati, magari come qualità delle auto e così via, stanno studiando e sappiamo benissimo quanto sono determinati, per cui prima o poi arriveranno. In India i costruttori locali sono secondo me un bellissimo caso da studiare, anche se il mercato indiano in quest'anno non è così positivo, perché stanno facendo veramente un miglioramento delle automobili portando tecnologia. Parlo di Suzuki Maruti, parlo di Mahindra e Mahindra, noi parliamo sempre in Europa di Tata perché certo. è famoso il signor Tata, ma in realtà gli altri due signori sono ancora più grossi di Tata nel mercato indiano. Ecco, si vede l'auto indiana come l'auto economica, la low cost. Ci sarà un'auto veramente low cost in futuro? Hanno capito anche loro che l'auto che è troppo low cost non la comprano nemmeno gli indiani. Perché comunque l'auto, e io sono uno di questi, è comunque anche un piacere. Tu sali in automobile, forse sta perdendo la caratteristica di status symbol. In Cina lo è ancora, ma diciamo nel nostro mondo molto meno, ma comunque un mezzo in cui stai seduto per tanto tempo, la vuoi con l'accessorio giusto, anche nei paesi ancora più poveri, comunque sia deve essere un po' sfiziosa, deve certo. attirarti, devi poterla personalizzare. Ecco, molti di coloro che ci ascoltano e li ringraziamo stanno viaggiando in automobile. Da parte di un costruttore di componenti importanti di automobili, qual è il consiglio che darebbe? Che difetto hanno gli italiani nei confronti dell'automobile? Generalmente detto, guardano poco la manutenzione dell'automobile e questo è abbastanza umano, perché uno dice no, ma chi me lo fa fare di cambiare le gomme piuttosto che cambiare il filtro, posso fare ancora 10.000 km, 5.000, però in realtà sono tutte cose, il non rispettare le manutenzioni alla fine fanno durare l'automobile di meno e fanno consumare di più o in casi esagerati, esasperati, essere pericolosi. Anche se 20 anni fa si cambiava l'olio ogni 3.000 km, adesso ogni 30.000. Esatto, come le gomme durano. Ovviamente la tecnologia porta a durate maggiori, ma comunque sia a 30.000 è meglio cambiare il filtro. E comunque da parte vostra, da parte di Sogefi, dei componenti di auto, c'è sempre questa tensione all'innovazione, arriveremo a cambiare l'olio ogni 50.000 o non cambiarlo più? In alcuni casi, su alcune cose, si è arrivati a non dover più fare la manutenzione. Adesso se ci si arriverà sui filtri e sull'olio non lo so, però nettamente c'è una grande parte di ricerca e sviluppo sulla durata dei componenti. Quindi vogliamo bene le nostre automobili. Assolutamente sì, sono un bellissimo oggetto. Grazie a Guglielmo Fiocchi, visitore delegato e direttore generale di Sogefi, che è stato con noi questa sera. Ringrazio anche quanti ci hanno ascoltato in questo nuovo orario. Ringrazio Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica, ma soprattutto buona settimana a questo punto.